stiamo presentando un libro davvero, davvero interessante che io ho letto con grandissimo piacere e mi ha così aperto, spiegato tutta una serie di fenomeni che siamo costretti a subire e che molte volte di cui non ci rendiamo perfettamente conto. Il titolo, abbiamo detto, è Herbie città merce, però il merito del lavoro di Sara è quello di aver dato uno sguardo complessivo al fenomeno, ossia Airbnb è un caso di studio, una storia di successo all'interno del fenomeno delle piattaforme digitali o di quello che si va chiamando capitalismo delle piattaforme. Occhio, è una modalità di organizzare il lavoro, di erogare il lavoro, di sfruttare il lavoro, di sfruttare le città, che sembra quasi passare inosservata, perché è un po' evanescente, virtuale, ma sta incidendo ed diventa il modello attuale estremamente pesante, pressante sull'organizzazione delle nostre vite. Quindi all'interno del fenomeno del capitalismo delle piattaforme digitali, lei tra l'altro traduce dall'inglese alcuni siti, alcuni passaggi, alcuni brani, no? Davvero estremamente interessanti, che invito tutti quanti a leggere, perché si riesce un pochettino a inquadrare, come dicevo prima, quello che ci sta succedendo, quello che ci sta capitando all'interno invece di scelte, come posso dire, di organizzazione capitalistica, di organizzazione dell'economia, di organizzazione dello sfruttamento delle città e delle nostre vite. È chiaro che il discorso di Airbnb si inscrive all'interno dei pesanti processi di turistificazione della città. È un agente pesantissimo in questo senso, no? Ora, forse non è che la turistificazione comincia con Airbnb, è una delle novità, è uno degli ultimi arrivati in questo senso, vero? Quindi anche a Firenze stessa ormai è qualche decennio che viviamo con questo pesante fardello. Airbnb ha accelerato un pochettino i processi. Poi entreremo nel merito, vedremo in che termini cambia la città, cambiano i rapporti all'interno del sistema urbano. Comunque conviene chiarire subito una cosa, chiamare le cose con il proprio nome. Airbnb cos'è? Tende a spacciarsi per piattaforma digitale, per intermediazione, come fornitore di servizi, di intermediazione. In realtà non è questo. Questa è la mitologia narrativa, la retorica narrativa di Airbnb. Nel giro di una decina d'anni questa piattaforma, questa multinazionale, perché ormai è diventata una multinazionale, si è affermata prepotentemente in tutto il pianeta ed è un operatore immobiliare. Un potente operatore immobiliare che modifica gli assetti delle città, modifica gli assetti in profondità dei quartieri, modifica i nostri stili di vita, entra in maniera capillare nel nostro stile di vita, nel modo con cui noi viviamo, organizziamo la nostra vita, perché ha delle ricadute pesantissime. Poi ci sarà Laura che un po' ce le spiegherà. Quindi in questo senso è un operatore speculativo che determina queste trasformazioni della città. Io non vorrei dilungarmi oltre, il libro è interessante, tra l'altro prende in considerazione quindi l'evoluzione storica del fenomeno Airbnb a partire dalla Bay Area, cioè quindi da San Francisco, tutta quella zona, come si diffonde, quali sono le conseguenze inizialmente all'interno delle città nordamericane, no? San Francisco, New York, eccetera, per poi avere delle ricadute verificare quello che accade nelle città europee. È bellissimo per esempio il passaggio su Lisbona, cioè guardate che a Lisbona stanno smontando la città, stanno staccando gli azulejos dalle pareti, dalle facciate dei fabbricati, perché rappresentano un souvenir autentico. O sono i turisti, o sono gli albergatori, o sono le agenzie turistiche che offrono questa icona simbolica della città. Ma le città sono corrose, sono completamente svilite, svuotate del senso dell'incontro comune, dell'incontro solidale. Cioè qui la città non esiste più. Di fronte ai fenomeni di turistificazione, di fronte all'invasione di questa piattaforma, siamo davvero un po' in difficoltà. Però poi non è che sia tutto perso. Abbiamo le resistenze, Airbnb e lo sfruttamento attivano delle resistenze, sia sul piano delle resistenze di tipo digitale, per esempio, poi ce ne parlerai tu, va bene? Non voglio anticipare. E poi sulla presenza attiva delle soggettività, dei soggetti e degli abitanti, dei residenti, degli abitanti vecchi e nuovi, migranti che non trovano un posto, una collocazione, gente senza casa. Quindi è anche un potente agente di immiserimento delle comunità locali. Questo va detto a chiare lettere. Questa è Airbnb. Allora, ora Sara ci aiuta un pochettino a decifrare il fenomeno. Allora, vediamo un pochettino come... Ah, ecco, ti volevo chiedere questo. L'affermazione di Airbnb avviene anche sulla base degli imbrogli narrativi. Vogliamo vedere di cosa si tratta? Buonasera a tutti. Sì, grazie per avermi invitato a presentare il libro in una città, insomma, tra le più colpite dal fenomeno da Airbnb. E io, diciamo, appunto, ho iniziato un po' a indagare questo fenomeno un paio di anni fa, proprio a partire dall'osservazione diretta, no, della trasformazione delle città, in particolare dove abito. E poi parlando con persone, no, che facevano Airbnb e quindi appunto che inizialmente, diciamo, alle origini del fenomeno verso, non so, il 2010 in Italia, forse 2011, persone, insomma, anche molto amiche che mi presentavano appunto questa piattaforma che io non conoscevo come una cosa meravigliosa, come una cosa, appunto, un'occasione di arrotondare, è facilissima da usare, questa è la vera novità di Airbnb, è molto facile, cioè, quindi questo ha fatto sì che hanno cominciato ad usarla persone comuni, quindi non diciamo professionisti. Ma a me, insomma, come dire, da subito mi è sembrata un po', come dire, un po' strana questa narrazione, perché appunto da parte di persone che davvero faticano magari ad arrivare a fine mese a pagare l'affitto, per cui si affittavano una stanza su Airbnb, io gli dicevo: ma ti sembra una soluzione? Cioè, il problema forse è a monte, il problema forse è l'affitto, il problema, no, questi anni di precarizzazione del lavoro, cioè il problema è il contesto economico, per cui, come dire, questo mito di Airbnb che fornisce la soluzione non ha mai retto, in qualche modo, secondo me. Di più, in questi ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione anche del modo di usare la piattaforma, perché questa... diciamo, questa è a tutti gli effetti una narrazione, no, che serve come strumento alla classe media per arrotondare. Abbiamo visto che di fatto non è vero, perché oggi la maggior parte delle case su Airbnb, appunto degli alloggi, sono interi appartamenti, non sono stanze condivise in case, per cui ci sono in realtà tantissimi, anzi diciamo pochi, grandi operatori che affittano molti alloggi su Airbnb e poi alla fine ricavano la quota maggiore di guadagno. A Roma, per esempio, ci sono solo un 20% di host che ha più di una proprietà, però portano a casa il 60% di tutti i profitti. Senza parlare poi del fatto che è chiaro che è come dire, favorito chi ha una casa in centro rispetto a chi ha una casa in periferia, per cui non c'è nessun meccanismo redistributivo di questo tipo di economia, anzi Airbnb è diventato uno strumento proprio di accumulazione di profitti da parte di pochi a discapito poi della città. Stiamo vedendo, no, in questi ultimi anni in tutte le città, le città d'arte italiane, questa trasformazione, che però non riguarda soltanto il centro storico, perché ogni città è diversa e vive, diciamo, una condizione particolare anche a seconda della sua morfologia, però a Roma il problema è molto diffuso anche nelle zone di semiperiferia, dove le persone non riescono più a trovare una casa in affitto perché sono tutte su Airbnb. Quindi ecco, io ho voluto, come dire, cercare di smontare questa narrazione su Airbnb in particolare, ma anche sul sistema turismo in generale, perché siamo abituati a sentir dire che il turismo è una risorsa, il turismo genera ricchezza, e quindi ho indagato nel libro anche questo aspetto, e cercando anche di capire quale sia, si sente? Se mi sa, non vorrei troppo perché poi rimbomba, ma appunto di contestualizzare invece anche il ruolo, diciamo il ruolo dei vari attori in questa trasformazione della città, e quindi anche il ruolo del pubblico, che non è quello di un semplice spettatore, perché poi spesso ci si chiede come mai questi fenomeni non vengano governati. Un po' davvero è perché sono sempre più rapidi, cioè questa trasformazione delle città è avvenuta nel giro di pochi anni, per cui ha colto un po' alla sprovvista amministratori e studiosi. Però in qualche modo c'è invece una, come dire, una vera e propria politica per basare l'economia delle città sul turismo, e questo appunto io l'ho analizzato attraverso varie interviste a vari studiosi, per cui diventa sempre più chiaro come nei paesi del sud del Mediterraneo. Non si sente? Ok, prima gli hanno detto l'idea. Ah, ok. Ecco, diciamo, questi paesi, no, appunto Lisbona, l'Italia, la Spagna e via dicendo, in questi paesi il turismo è diventato, c'è una vera e propria industria, è la prima industria, per cui c'è invece una, diciamo, un'intenzionalità nel vendere le città come location, no, come diciamo posti desiderabili turistici e via dicendo, quindi si fanno tutte le campagne per rendere attrattive le città. Adesso si sente troppo? quindi questo è stato anche molto interessante. Io ho analizzato molto anche le città nel Nord America, proprio perché forse a volte i fenomeni si riescono a cogliere meglio con una certa distanza, per cui San Francisco, New York, Toronto sono città molto diverse da quelle italiane, innanzitutto per una questione abitativa che è molto più grave rispetto all'Italia. Lì si tratta quasi di, appunto, di situazioni di emergenza, insomma di crisi umanitaria quasi, perché lì c'è un livello di speculazione immobiliare molto più importante e una quota di popolazione che abita in affitto molto più dall'Italia. Però, come dire, il fenomeno poi di base è lo stesso, appunto l'impatto delle piattaforme nell'economia della città, e quindi l'espulsione di residenti e di attività, è esattamente la stessa. E lì, a differenza che in Italia, il tema di Airbnb è stato da subito inquadrato in relazione alla questione abitativa, cosa che non è avvenuta in Italia, perché fino a poco tempo fa si parlava soltanto di Airbnb in termini di concorrenza sleale nei confronti delle attività ricettive tradizionali e di questioni fiscali. Per cui io ho provato invece a riportare un po' del dibattito che c'è in Nord America, soprattutto sul tema di Airbnb, per spostare il focus sulla questione abitativa, perché Airbnb appunto sta espellendo cittadini dalle città. Quindi ecco, diciamo, ho scritto un libro che dà molti spunti, ci sono molti temi, perché poi appunto Airbnb non è un tema a sé, ma c'è il tema della casa, il tema del lavoro, ci sono tanti temi, per cui sono anche tanti punti di partenza poi da indagare più a fondo. Qui adesso magari facciamo un giro. Sì, e quindi uno degli spunti, per esempio, ti dicevo, sono gli imbrogli narrativi di Airbnb, cioè il mito delle origini, Brian Chesky e Joe Gebbia, che così di punto in bianco riescono a diventare due star della finanza della finanza immobiliare internazionale. È vero questo? È una storia di amici, è una storia del mito americano dell'essere imprenditori di se stessi, oppure dietro c'è un apparato ben preciso che si nasconde per far passare tutta una narrativa su Airbnb, per rendere Airbnb, come si può dire, amichevole, friendly, facilmente accessibile. E l'altro imbroglio è quello della condivisione. E si dice: condivido l'appartamento, stabilisco delle relazioni. E stabilisco delle relazioni, questa è la narrazione di Airbnb, stabilisco delle relazioni sulla base di una fiducia. Dice: allora Airbnb è un soggetto che alimenta il collante sociale. Allora, le tue considerazioni rispetto a questi due imbrogli, che sono potentissimi perché rappresentano un modo con cui la multinazionale americana si presenta. Sì, devo dire che mi sono molto divertita in realtà a scrivere questa prima parte del libro, proprio perché ho approfondito questa famosa storia delle origini, che è diventato un mito, no? Di questi tre ragazzi creativi che hanno inventato questa startup, insomma. E nulla di più falso, perché in verità, oltre al fatto che loro in realtà hanno inventato Airbnb per pagare l'affitto a un proprietario, un multiproprietario di edifici a San Francisco, che noto ai movimenti per il diritto alla casa, che stava sfrattando tantissimi inquilini che si erano invece rivolti all'Unione Inquilini, che poi ha vinto rispetto, insomma, in una battaglia contro questo proprietario, riuscendo invece a bloccare molti sfratti. Invece loro tre, anziché rivolgersi appunto all'Unione Inquilini, hanno inventato questa startup che ho scoperto appunto leggendo vari materiali, in realtà. Appunto, questa startup in realtà non decollava, non partiva, e non sarebbe mai, diciamo, veramente, non avrebbe mai avuto successo se non avesse ricevuto appunto tantissimi finanziamenti da parte dei grandi capitali di ventura, e quindi questo è un elemento, insomma, centrale, anche il luogo di nascita di Airbnb, cioè tutto il sistema economico della Silicon Valley che ho analizzato nel libro, che poi in realtà si poggia su finanziamenti pubblici e su anche, come dire, l'ossatura poi fisica delle città di San Francisco, ovvero le persone che l'abitano e ci lavorano, per cui c'è tutto il contesto economico di nascita di Airbnb, è molto interessante, e semplicemente portando alla luce questo, il mito della creatività e dell'imprenditorialità individuale, cioè proprio svanisce nel nulla. Quindi ecco, quello si trattava soltanto di rimettere in fila alcuni elementi. Quello che io trovo appunto molto grave in realtà è questa ideologia del merito individuale, quindi di questo spirito creativo, imprenditoriale e via dicendo, che è quello che Airbnb promuove, è in qualche modo è passato nella mentalità, anche nella mentalità italiana, perché io tendo a vedere Airbnb come una specie di emanazione, di proseguimento, no? Di una mentalità che vuole mettere a profitto ogni cosa, per cui cioè sempre la mercificazione di sempre più cose, cioè prima insomma la macchina con Uber, la casa con Airbnb. Da una parte è un po' un'ultima spiaggia, cioè in un'economia sempre più povera, perché insomma, come dire, siamo in questa fase economica dove neanche a Roma, per esempio, mi chiedo ma quanto funziona ancora anche la stessa speculazione immobiliare, cioè anche sotto quel punto di vista sembra essere quasi tutto, tutto in fallimento, non si riesce neanche più a speculare, però adesso sono i singoli cittadini a appunto a mettere a frutto, a reddito la casa, a valore la casa, per cui è come, questo, come se questo processo poi continuasse, no? In questa atomizzazione, cioè degli individui che sono diventati appunto imprenditori di se stessi e poi di fatto cominciano a vivere di ciò che li uccide, perché la dinamica è questa. Per cui ecco, questo è uno degli aspetti che ho voluto analizzare insieme a quello che dicevi tu poi della fiducia, che insomma che diciamo anche quella è una grande mistificazione, perché in verità Airbnb non è altro che un sistema appunto di intermediazione, ma basato sul sistema di pagamento, per cui non c'entra assolutamente nulla né la fiducia né l'amicizia, anzi in realtà il sistema di pagamento consente proprio di non diventare amici, ovvero di mantenere una distanza e lo spazio, come dire, tra vita privata e pubblica, a cui tra l'altro molti host tengono, insomma, quelli che almeno affittano la stanza in casa propria. Per cui, ecco, come dire, è semplicemente un sistema economico. Poi, chiamato condivisione, perché l'hanno chiamato così, ma non si tratta di condivisione, si tratta di una transazione economica. Per completare un po' questa visione sulle retoriche proposte dalla piattaforma, un'altra potentissima retorica è questa, dice si tratta a fronte di un immiserimento, come dicevi, no? Del ceto medio, della classe media, eccetera, guardate che qui c'è la possibilità di arrotondare dei redditi, c'è la possibilità di arrotondare il proprio reddito. È proprio vero questo, cioè si arrotonda il reddito oppure i soggetti coinvolti sono qualcosa oltre la classe media, oltre le famiglie, e quindi lo sguardo è molto più ampio. Ma tendenzialmente, ecco, premesso che appunto ogni città è diversa, in realtà non, come dire, stiamo vedendo che non si tratta di arrotondare, perché appunto poi gli attori che guadagnano di più sono gli attori, insomma, come dire, professionisti che svolgono una vera e propria attività imprenditoriale. Negli Stati Uniti, ma insomma anche in Italia, diciamo, si cominciano proprio a costruire edifici per essere affittati su Airbnb. Quindi c'è anche una metamorfosi, no? Anche del mercato immobiliare stesso, che appunto l'Italia poi è un caso particolare rispetto anche all'Europa, perché in Italia i valori immobiliari sono crollati, non hanno riagganciato la ripresa che c'è invece, che c'è stata in Europa dal 2013, per cui in Italia quello che va sono appunto gli studentati di lusso e queste forme di come dire, questa offerta abitativa temporanea, quindi alberghi, Airbnb e via dicendo. E appunto, tornando lì, insomma, agli Stati Uniti, lì è proprio evidente come addirittura appunto si costruiscono edifici, siccome lì ci sono dei regolamenti condominiali che o consentono o non consentono l'affitto su Airbnb, Airbnb fa accordi con questi condomini e addirittura l'accordo prevede che il proprietario poi possa controllare l'attività che fa l'inquilino su Airbnb e anche poi guadagnarci sopra una percentuale, per cui cioè, in qualche modo l'affitto viene automaticamente maggiorato proprio per dare, no, la percentuale di Airbnb al proprietario, quindi cioè, una dinamica perversa. E anche in Italia comunque, insomma, secondo me andrebbero, ecco, il grande problema di Airbnb è l'assenza di dati, perché Airbnb non li pubblica. Per cui andrebbe fatto un lavoro, insomma questo è tutto un altro tema, però sul lavoro appunto normativo e di pressione da parte delle istituzioni su Airbnb, che al momento non c'è, però anche appunto di pressione sul rendere pubblici dati, perché andrebbe invece veramente capito quanto chi gestisce la maggior parte, no, degli alloggi su Airbnb nelle città italiane. Sicuramente tanti sono anche singoli, però ci sono, penso, anche invece grandi operatori. Tra l'altro, apro una parentesi, perché proprio di questi giorni invece appunto questo, diciamo, caso mediatico molto clamoroso negli Stati Uniti, per cui un giornalista di Vice ha scoperto questa enorme rete di persone che fanno, cioè, mettono annunci finti, siccome quando tu prenoti automaticamente paghi, penso dopo 24 ore, appunto hanno messo su questa rete di annunci finti, ma poi di fatto questi annunci non, cioè queste case non esistono, per cui queste persone si ritrovano poi spostate in altri alloggi tremendi, insomma in periferie così, e poi non riescono ad ottenere un rimborso perché il servizio clienti Airbnb è terribile. Per cui quando è uscito questo articolo l'FBI subito ha iniziato a indagare, insomma si è scoperta questa rete eccetera. Allora io per curiosità l'altro giorno mi sono anche andata a vedere sulle pagine Facebook di Airbnb in Italia e ci sono molti commenti di persone che dicono: ma io ho prenotato un alloggio, ma poi quando sono andata era un altro. Per cui c'è anche tutto questo lato qui di vere e proprie truffe, su cui non è possibile, cioè, allo stato attuale, controllare. Per cui ecco, qui magari ne parliamo dopo, anche sul tutto il tema invece dell'aspetto normativo e di quello che invece il pubblico dovrebbe, cioè le amministrazioni dovrebbero esigere da Airbnb e non solo. Sì, certo. Quindi... Insomma, di fronte al dilagare di Airbnb mi sembra che l'apparato normativo, le amministrazioni pubbliche non siano in difficoltà, cioè siano inesistenti. Penso che il tema centrale è questo, cioè da un lato c'è questo potente operatore immobiliare, decide e modifica le sorti della città. Tu parli di gentrificazione, cioè di espulsione dei residenti sostituiti da un ceto ricco, da un ceto più abbiente, no? Quindi mercato immobiliare impazzito, alle stelle, prezzi degli alloggi, eccetera. Le amministrazioni comunali, ma forse stiamo verificando con mano anche quello che accade a Firenze, non siano in difficoltà. Al di là delle apparenze o dei falsi movimenti, io li chiamo falsi movimenti, le amministrazioni sono davvero inesistenti. Allora io ti chiedo, intanto, l'apparato normativo esistente è sufficiente, potrebbe essere attivato, dovrebbe essere integrato, modificato, oppure secondo te come possiamo intervenire in questo senso? Cioè per cominciare a regolamentare questo fenomeno. E si tratta di un primo atto, di un primo passo. Sì, intanto appunto io credo che molte amministrazioni si siano astenute dal normare Airbnb, perché da una parte sono anche convinte che in qualche modo faccia bene all'economia, e sono anche forse consapevoli, appunto viste le difficoltà economiche di questo famoso ceto medio, dicono vabbè, li lasciamo arrotondare, per cui c'è poi una non conoscenza del fenomeno e questa, come dire, quindi connivenza, no? E poi appunto questo non governare i fenomeni è quello che vediamo, insomma, per lo più avvenire in molti altri settori, non solo questo di Airbnb. Per cui innanzitutto bisogna, insomma io sono contenta che se ne comincia un po' a parlare in questo periodo, perché intanto va un po' smontata questa narrazione per cui Airbnb faccia bene all'economia. Dopodiché appunto il tema dell'ingresso delle piattaforme nell'economia, perché poi c'è anche tutto il tema per esempio di Amazon che impatta anch'esso, no? Come dire, poi a terra nelle città e ha anche questo, no? Delle conseguenze. Il livello normativo è ovviamente molto complesso perché in Italia è frammentato tra vari livelli di amministrazione, poi per non parlare del fatto che appunto c'è il livello dell'europeo che siamo poi anche lì in attesa di una definizione. Ci sono varie cause in corso, appunto Airbnb sostiene di non essere un operatore immobiliare ma di essere un semplice intermediario, per cui non responsabile dell'attività dei suoi utenti, mentre invece, come è evidente, non è così, che gestisce l'attività dei suoi utenti. Quindi ci sono varie appunto situazioni a livello normativo, a vari livelli da sciogliere. Il problema poi dell'Italia, ecco, è che i comuni non hanno l'autonomia per poter appunto normare Airbnb, però ecco, tutto questo per dire che in realtà tutto questo grande tema delle piattaforme poi non va neanche, come dire, non bisogna neanche rimanere con un senso di impotenza, perché invece si possono normare in maniera anche molto semplice questi fenomeni. San Francisco, che è stata la prima città a introdurre questo regolamento, innanzitutto stabilire il criterio di distinzione tra uso occasionale e uso imprenditoriale, quindi un criterio temporale per cui non puoi affittare l'intera casa per più di 90 giorni l'anno, ed è questo, diciamo, poi l'affitto è anche limitato alla casa di residenza, quindi una e basta, cioè non esiste avere più di un alloggio in affitto. Questo appunto per stabilire che così, cioè in questa modalità qui si tratta di arrotondare, per cui quello è consentito con una licenza, un numero di licenza assegnato dal comune, e hanno imposto ad Airbnb di cambiare il sito, di modificare il sito, per cui adesso senza insomma digitare il numero di licenza è proprio impossibile. Anche in Italia si parla di codici identificativi. Leggevo sempre ieri sempre un commento di un host in Veneto: hanno introdotto il codice identificativo, però siccome Airbnb oscura numeri e lettere insomma sul sito, gli host non riescono a pubblicare il codice identificativo, cioè una follia, nel senso lì la regione dovrebbe imporre ad Airbnb di modificare la piattaforma e via dicendo. Per cui ecco, questa normativa di San Francisco in realtà ha funzionato molto bene, perché quando poi è stata entrata in vigore gli affitti sono crollati, il numero degli annunci è crollato della metà proprio il giorno dopo. Però soprattutto a San Francisco hanno istituito un ufficio apposito per gli affitti brevi, perché non si può neanche pensare di stare dietro di queste innovazioni e trasformazioni senza appunto aggiornare anche gli strumenti amministrativi e senza investire anche risorse, perché questo poi è un tema centrale. Noi in Italia ci hanno tagliato tantissimi fondi pubblici con varie appunto retoriche anche lì, però invece è fondamentale essere, come dire, attivi, per cui anche finanziare appunto per esempio un ufficio o un osservatorio o uno strumento pubblico che possa gestire insomma questa piattaforma. Poi è chiaro che l'ideale invece, per esempio a Barcellona stavano lavorando sulla creazione di una piattaforma del comune dove appunto si può pubblicare un annuncio, quello sarebbe insomma la soluzione migliore alla fine. D'accordo. Casomai sulla questione di domattina ci ritorniamo dopo, va bene? Ora casomai sentiamo la parola, passa a Laura Grandi, per vedere dall'osservatorio del SUNIA quali sono le ricadute sulla città, sulla struttura del mercato immobiliare. Si parla di emergenza abitativa, quindi c'è una situazione piuttosto difficile che dipende sia dai processi di turistificazione in generale. Airbnb poi ha creato poi il caso definitivo, cioè ha fatto esplodere davvero la bolla. Allora, se ci puoi dare un po' una radiografia, un po' di dati e capire che cosa sta, quali sono le ricadute sulla città. Buonasera a tutti. Sì, come ha detto, appunto, io sono il segretario del SUNIA della Toscana, ma anche il segretario del SUNIA di Firenze. Intanto il libro leggetelo perché si legge molto bene e soprattutto si capisce bene lo sviluppo di questo fenomeno che è partito da San Francisco e, come scrive Sara, San Francisco è diventata la città più cara al mondo. Ci sarà un motivo. Gli affitti sono, mi pare, di $3,500 al mese, quindi la città dove il fenomeno è nato è anche la città più cara al mondo. Firenze è sempre stata una città dove gli affitti sono sempre stati alti, si è sempre parlato del fenomeno del centro storico, dove la questione casa, scusate, casa non è inclusiva ma esclusiva perché gli affitti sono sempre stati alti e così via. Però il fenomeno degli Airbnb ha moltiplicato, è stato proprio un elemento acceleratore di questa situazione. Che cosa ha fatto questo fenomeno degli Airbnb? Ha fatto sì, diciamo anche che ha avuto un effetto strano, perché è riuscito laddove la politica non era riuscita. La questione degli sfratti. A Firenze gli sfratti sono diminuiti. È diminuita l'emergenza abitativa? No, però gli sfratti sono diminuiti. Come mai? Perché ci sono state dei provvedimenti, perché si è intervenuto, più case popolari, eccetera. No, perché laddove si eseguivano gli sfratti, quindi i proprietari ritornavano in possesso delle abitazioni, non hanno pensato proprio di riaffittarle, quindi sono uscite dal circuito virtuoso delle locazioni e sono state affittate ai turisti. Quindi gli sfratti sono sempre alti, nel senso c'è un numero alto di esecuzioni in questa città, ma è pressoché dimezzato e quindi la politica non era riuscita laddove invece c'è riuscito il fenomeno del turismo. È veramente una cosa assurda, è grottesca, ma è riuscito a velocizzare l'emergenza abitativa, perché io dico sempre che l'emergenza abitativa non sono gli sfratti con morosità, per morosità, le occupazioni. La vera emergenza abitativa in questa città, in questa regione, ma anche in questa nazione, sono gli affitti non sostenibili, gli affitti alti, perché come il fenomeno, se la menzogna che gli Airbnb erano la pacca sulla spalla, si diventa tutti amici, la condivisione di una stanza, anche per quello che riguarda gli affitti, si è inveterata questa idea che un affitto di €700 è un affitto normale. Ma non è così, è una cosa assurda, cioè se te a Firenze trovi qualcuno che ti dà la casa a €700 al mese, sei fortunato, provate un po' a dirlo, intanto ho trovato qualcuno che mi affitta, perché è già difficile, perché qui non si affitta più a nessuno. Poi ho trovato qualcuno che mi affitta a €700, sei fortunatissimo, hai vinto al gratta e vinci, perché veramente è impossibile. Ed è una cosa che a me mi fa inferocire, non è normale, non è assolutamente normale. E l'emergenza abitativa sono tutte quelle famiglie, tutte quelle persone che sono costrette a impegnare più del 50% del proprio reddito nell'affitto. In questa città cosa è successo? Mi chiedeva prima, non mi ricordo il nome di battesimo, Antonio. È successo che, primo, non si trova più affitti. Nessuno ti affitta più, non trovi, ma non soltanto nel centro storico, anche fuori dalle mura, cioè è diventata, prima dicevo con Sara, per esempio il fenomeno della tranvia, che doveva essere un fenomeno che andava a facilitare, ed è andata a facilitare, ve lo assicuro, io vivo vicino a Careggi, quindi mi rendo conto della facilità con cui ora raggiungo per esempio il centro, che io lavoro anche in centro. Ma è andata a rendere più fruibili per il turismo quegli appartamenti che sono sulla direttrice della tranvia. Quindi, per esempio, la zona di Careggi, che prima era dedicata soprattutto ad affittare a chi lavorava all'ospedale, quindi medici, infermieri e così via, ora, piano piano, che gli alloggi si liberano, vengono affittate anche a quelli, ai turisti. E la cosa assurda, mi diceva, noi ogni tanto parliamo con gli agenti immobiliari, che addirittura in quest'ultimo periodo il turismo predilige quasi di più alloggi fuori dal centro storico, più tranquilli, ma che in 5 minuti viene raggiunto il centro storico. Quindi è diventata una città papabile, tutta papabile per questo tipo di fenomeno. Anche chi comunque aveva un affitto importante, quindi gli affitti normali, residente da 20 anni, 25 anni in questa città, non aveva mai avuto problemi, no? Perché si dice che gli sfratti sono il 90% per morosità. Ok, il proprietario dice: io non voglio più inciampare in un inquilino moroso perché dopo mi ci vuole un anno ad andare via, va bene. Ok, vabbè, questo è un altro discorso. Però anche chi aveva un contratto normale e pagava sempre regolarmente, è successo che a scadenza di contratto non hanno il rinnovo contrattuale. I proprietari gli dicono: scusate tanto, sì, sei un ottimo inquilino, come se ci volesse il marchio di qualità per essere un ottimo inquilino, comunque, però noi non vi rinnoviamo il contratto perché preferiamo mettere a reddito la casa. E quindi avevamo avuto, proprio in questi ultimi mesi, vediamo che da Alsunia venivano tanti inquilini che dicevano: no, io ho sempre pagato, ho un affitto anche importante, non mi rinnovano il contratto. E poi queste sono persone che casomai non è che rimangono lì dopo lo sfratto, arrivano alla forza pubblica, è che poi prendono e se ne vanno, e vanno via da queste abitazioni persone che per 20-25 anni avevano vissuto in quel quartiere, casomai avevano una funzione, riconosciuti, cioè facevano parte di quel tessuto sociale, che si va completamente a sradicare, perché ormai si è inveterata la convinzione che bisogna mettere a reddito la casa, sfruttarla il più possibile. Da noi arrivano persone che affittano tutto della casa, è come il maiale, non si butta via niente, no, affitta addirittura lo stanzino, se c'è la fortuna di avere un ripostiglio con la finestra, t'affitto anche quella, t'affitto quella porzione di immobile, quindi la casa proprio sfruttata all'ennesima potenza. Firenze adesso è questa, Firenze adesso è una città dove non trovi affitto, non lo trovi anche se hai disponibilità economiche, e comunque se lo trovi a dei prezzi altissimi. Quelli che sono andati via da Firenze non è che sono scomparsi, non è che gente che puff, bacchetta magica, scompare l'inquilino. No, sono andati fuori Firenze, sono andati in altre, fuori dalla cerchia nell'area metropolitana, sono andati anche fuori. E che cosa è successo? Comuni che non avevano mai conosciuto l'emergenza abitativa, per esempio, io faccio sempre l'esempio di Figline Valdarno, laddove te fino a un paio d'anni fa a Figline Valdarno riuscivi a trovare un affitto a 350-400 euro, oppure anche la stessa Pontassieve, adesso no, adesso trovi affitti 600-700 euro, quindi è andato ad aumentare il prezzo delle abitazioni nelle aree circostanti, e quindi è aumentata anche lì il problema dell'emergenza abitativa, maggior numero di sfratti per morosità e difficoltà delle amministrazioni per gestire questo fenomeno. Firenze è diventata questa. Poi è una cosa schizofrenica, noi vediamo, ora questa è una nota di colore, non c'entra niente, ma a volte vengono anche da noi dei piccoli proprietari che dicono: ho ereditato dei soldi, ma poca roba, voglio fare un mega mutuo perché voglio comprare una casa e voglio affittare. Sembra che sia l'unico modo per la rendita è diventato comprare una casa per darla in affitto. Cioè, no, è una cosa pazzesca. Diceva prima Sara che la legislazione, che le norme è frastagliata, ci sono diversi livelli, intervento quello amministrativo, quello regionale, perché la regione ha una parte della delega sulla casa, e quello nazionale. In effetti non è semplice. Per come la penso io, per come la vedo io, posso andare avanti? Fermami, eh? Ah, ok. Per come la vedo io, l'amministrazione ha più un ruolo politico, nel senso, può giocare tanto con la leva dell'urbanistica, tanti beni demaniali dismessi, destinarla alla residenzialità e quindi farci alloggi Io sono per le case popolari, quindi tanti alloggi di edilizia pubblica. Tra l'altro ieri è uscito anche il regolamento sull'edilizia pubblica. Vabbè, e facciamo anche social housing, non destiniamo tutto agli studentati di lusso, che sono veramente una cosa, o comunque a alberghi e così via. Quindi c'ha in mano questa leva politica qui. Una cosa che si potrebbe fare veramente subito e anche molto velocemente se ci fosse la volontà politica a livello nazionale, invece di stare a questuare con il Ministero per non alzare la cedolare secca al 12,5% ma mantenere la cedolare secca sugli affitti al 10%, che per me è stata una battaglia sbagliata, però ormai è così. Intanto togliere la cedolare secca al 21% per gli affitti turistici, ma che cos'è? Via, chiuso. Dopodiché, in uno sforzo proprio di coraggio, dire che chi affitta ai turisti, chi fa gli affitti brevi per turisti, non è affitto, non può essere tassato come un affitto, è reddito di impresa, perché te svolgi una vera e propria attività di impresa e come tale andrebbe considerata. E anche queste abitazioni dovrebbero avere a questo punto anche un controllo maggiore dal punto di vista degli adeguamenti a norma. Succedono tantissimi casi nelle case del centro non adeguate ad avere questo numero massiccio di persone che entrano, escono, problemi di incendi, insomma tutta questa cosa qui che è inerente agli adeguamenti a norma di legge. Qui non si tratta di essere nemici dei turisti, eh? A me mi arrivano sempre di più sulla mail del Sunia messaggi tipo voi non capite, volete tagliare le gambe alla piccola, alle persone con la crisi, insomma eccetera eccetera. No, non è questo, ma veramente non è questo. È che ci rendiamo conto questo fenomeno è intervenuto veramente a piedi uniti sulla questione casa, rendendo tutti molto più poveri e veramente, qui concludo, siamo arrivati al paradosso, ed è veramente un paradosso, che mi costa di meno comprarmi una casa perché la rata del mutuo è più bassa di un affitto. Soprattutto per i giovani, una rata di un mutuo possa arrivare a 400 euro per 30 anni, però lo sostengo, un affitto tra che non lo trovo e tra che è il doppio e poi c'è una sicurezza così, mi incateno per 30 anni in una casa. È una cosa anacronistica, con la mobilità del lavoro che c'è adesso è una cosa senza senso. Quindi insomma, di problemi a questa città, che non aveva bisogno dal punto di vista abitativo, ne ha creati veramente tanti. Bene, grazie Laura, è stata una radiografia esauriente. Sì, certo, insomma, la questione è che la città si va modificando profondamente, i residenti diventano dei fantasmi, dei clandestini quasi, no? Attuano dei percorsi per evitare le zone più turistificate, eccetera, non c'è più l'accesso e il diritto all'abitazione, quindi una città che si trasforma profondamente, diventa una quinta teatrale a disposizione di persone che transitano per luoghi. No, volevo aggiungere una cosa però, secondo me è possibile provare anche a intervenire a livello locale agendo sulla pianificazione, che a Firenze purtroppo è carente. Cioè, per esempio, si diceva l'altra volta che nel regolamento urbanistico di Firenze, all'articolo 19, si parla, sono classificate le destinazioni d'uso. Destinazione d'uso, residenza, cosa vuol dire? Che ci si abita stabilmente. Invece in quell'articolo per residenza si intendono le residenze temporanee, i bed and breakfast, le case vacanza, quindi c'è una commistione, capito, di destinazioni all'interno di quel determinato articolo. Allora, da questo punto di vista ci vuole chiarezza, residenza è residenza, attività turistico-ricettive sono ben altro. Perché questa separazione? Quando si va a pianificare un territorio, si pianifica tra le varie cose, avendo un quadro d'insieme della situazione, ma anche sulla base delle destinazioni d'uso. E quando le destinazioni d'uso non sono più residenza, ma sono turistico-ricettive, incidi in maniera molto potente, molto forte, sulla qualità del quartiere. Allora bisogna anche stabilire il carico che può sopportare quel determinato quartiere, quella determinata zona, ma a partire da delle destinazioni d'uso che devono essere chiamate con il proprio nome. Una casa vacanze non è una residenza stabile, un bed and breakfast non è una residenza. Allora, secondo me, ci sono dei margini di intervento a partire proprio dalla pianificazione, che in questa amministrazione purtroppo è evanescente, nonostante la quantità, la mole di documenti che viene prodotta, poi in realtà c'è il vuoto assoluto. E questo anche per tagliare le gambe ad Airbnb, che fa un'azione di lobby molto potente nei confronti dei comuni, addirittura ha attivato delle cause giudiziarie nei confronti dei comuni perché non sono, come si può dire, alcuni provvedimenti ledono alcuni diritti, tra virgolette, della piattaforma. Allora, quindi forse è possibile intervenire, è necessaria la partecipazione, è necessaria tutta una serie di attivazione di soggetti che facciano notare appunto le contraddizioni di questo tipo. E a proposito di soggetti, quindi come si dice, lo sfruttamento crea resistenza, abbiamo due possibilità, due soggetti che è l'occupazione di Via del Leone, che sono presenti in questo campo. Allora, io invito Cosimo a intervenire, quindi cercare di capire cosa loro fanno per cercare di opporsi a questa deriva. Grazie. Allora, innanzitutto voglio ringraziare tutti voi di essere qui. Antonio, Sara, Laura, Silvio, insomma tutti quelli che hanno partecipato all'organizzazione di questa giornata e voi che siete venuti qui ad ascoltare e che continuate settimana dopo settimana a dimostrare un vero e proprio interesse per i fenomeni che stanno attraversando Firenze e in particolare il quartiere di San Frediano e l'Oltrarno. Airbnb appunto a Firenze si inserisce in un contesto che è ben più ampio, un contesto di speculazioni che vediamo andare avanti tutti i giorni. Possiamo citare tra le ultime il cinema, l'ex cinema Eolo, poi ex Bingo, che adesso dovrebbe diventare un grande hotel con ristorante. La farmacia Pitti in piazza San Felice, che anche quella dovrebbe diventare la hall di un albergo, è lì dal 1808, che è comunque un servizio per il quartiere che se ne va. Vediamo il parcheggio in piazza del Cestello, che dopo non essere riusciti a farlo in piazza del Carmine, grazie alla sollevazione del quartiere, non essere riusciti a farlo in piazza Tasso, adesso vogliono provare a farlo in piazza del Cestello, dove nell'ex caserma sta per aprire un hub, un centro, un incubatore di start-up che avrà un enorme impatto sul quartiere, perché porterà una grande quantità di capitali globali ad attraversare questo rione, con tutte le richieste che ne conseguono di bistrò, ristoranti e alloggi di lusso che noi non possiamo permetterci. Questo con un'amministrazione che è assolutamente non assente, direi propriamente connivente con gli speculatori, cioè un'amministrazione totalmente prostrata a degli interessi economici che non hanno assolutamente bisogno di essere difesi ulteriormente, perché in questo sistema sono già fin troppo forti e lo sappiamo bene. Questi soggetti sono quelli che noi, in un qualche modo, chi credendoci di più, chi credendoci di meno, mettiamo lì su quelle poltrone, e sono quelli che dovrebbero difendere noi e che invece altro non fanno che continuare a fregarci e prenderci in giro e a usare semplicemente forme retoriche per giustificare speculazioni e movimenti economici che sono totalmente a nostro danno. Airbnb arriva in questo contesto e porta all'esplosione di quello che si potrebbe quasi chiamare una forma di estrattivismo urbano, cioè questo spasmodico desiderio di ricavare ricchezza dal singolo metro quadro, da qualsiasi casa. No, noi l'ultimo posto, cioè dove penseremmo di essere attaccati, il posto dove andiamo a rifugiarci, casa nostra, diventa il primo strumento, il migliore strumento per fare profitto. E quindi i residenti si trovano appunto, come si diceva, espulsi dal centro storico, che diventa per noi gestito come se fosse un hotel di lusso, in cui noi siamo dei dipendenti. Noi veniamo qua a lavorare, però non possiamo permetterci i velluti, le poltrone imbottite, dei salotti buoni. Non dobbiamo farci vedere perché rischiamo anche di rovinare il teatrino, per cui se vogliamo andare a bere una birra in piazza anziché in un locale, perché non possiamo permetterci di spendere per un drink più di quanto guadagniamo in un'ora di lavoro, veniamo scacciati con gli idranti, se non dalla municipale antidegrado, che altro non sono che dei picchiatori soft. Noi appunto pensiamo che sia assolutamente necessario attivarsi in prima persona in queste dinamiche e far trasformare quello che dimostriamo tutti i giorni, l'interesse che tutti i giorni dimostriamo di avere, in attivazione, nel fare qualcosa per cambiare le cose. Abbiamo già dimostrato la forza di questo quartiere in varie battaglie, citavo prima quella del parcheggio in Piazza del Carmine, ma ultima anche quella dell'ASL di Santa Rosa, che, con cui abbiamo impedito dei grossi attacchi al nostro quartiere. Ecco, noi abbiamo pensato che, visto tutto questo insieme, questo quadro generale che si delinea, questo filo rosso che connette diversi attacchi appunto ai nostri rioni, alle nostre strade, abbiamo pensato che sia necessario avere un intervento organico che riesca ad avere una visione d'insieme rispetto ai vari problemi, che riesca a tenerli insieme in un discorso, e quindi a partire da un'assemblea del 27 settembre in Piazza Tasso abbiamo formato con vari abitanti, altri collettivi e associazioni del quartiere, un comitato che si pone come obiettivo quello di sviluppare un piano di trasformazione urbana per l'Oltrarno, quindi che vada a delineare tutte le varie regole, da quelle che si diceva per gli affitti brevi alle case popolari che venivano nominate, alla salvaguardia di determinati esercizi o all'incoraggiamento ad aprire determinati esercizi economici che effettivamente portano un servizio al vicinato, perché pensiamo appunto che sia necessario, oltre alle singole lotte, portare avanti anche insieme, collettivamente, un'idea diversa di quartiere, provare a creare qui un modello che poi possa essere replicabile negli altri quartieri di questa città e in generale nelle città italiane e insomma chi più ne ha più ne metta. Ci stiamo ritrovando ogni martedì, per cui vi invitiamo a passare. Siamo per ora all'occupazione in Via del Leone, ma con Fuori Binario ci stiamo organizzando per cercare di creare una stanza all'interno appunto dei locali di Fuori Binario, in cui poter allestire con mappe e le varie documentazioni che possiamo raccogliere sul quartiere, per essere aggiornati e per potersi accrescere tutto e trasmettere le conoscenze. Concludo invitandovi il 30 novembre a una giornata che faremo appunto col Comitato in Piazza Tasso, sarà da pranzo in poi, e vorremmo appunto con i cittadini fare una progettazione collettiva della piazza rispetto a quelle che possono essere le sue problematiche, i suoi punti di forza, e quindi come insieme vorremmo impegnarci per migliorarla. Grazie ancora. Bene, grazie Cosimo. Sì, in effetti i binari su cui procedere sono appunto questi, no? Da un lato appropriazione, da un lato partecipazione e dall'altro lato appropriazione degli spazi. E quindi ben venga l'osservatorio sul quartiere, ben vengano le proposte di pianificazione, di strutturazione di un quartiere a partire dalle esigenze reali degli abitanti e non dalle esigenze dei pochi ricchi. Questo è fondamentale. Quindi grazie per la vostra presenza, per quello che fate, e passo la parola a Silvio della Rete Set. Ci spiegherà cos'è questa Rete Set. Buonasera a tutti e tutte. Allora, la rete SET è una rete, per l'appunto, è un acronimo, è Sud Europa di fronte alla turistificazione, e quindi è una rete composta da vari nodi situati nelle città prevalentemente del Sud Europa, perché si pensa che il Sud Europa, quindi la parte dell'Europa che affaccia sul Mediterraneo, sia quella più colpita da questo fenomeno così aggressivo di turistificazione. Vi è nato un nodo anche a Firenze circa un anno fa, e il tentativo è quello di rendere le azioni il più globali possibile. Questo è un po' una cosa che è stata vista anche in varie lotte su temi simili a quelli di Airbnb, che non hanno avuto sbocco fino a che non si sono allargati non solo oltre ai confini cittadini, non solo oltre a quelli regionali e nazionali, ma non sono arrivate. Mi viene in mente ad esempio tutta la questione sindacale che è andata avanti l'anno scorso con Ryanair, che è stata incisiva, almeno in parte, solo perché vi è stato il primo esempio di uno sciopero europeo per fronteggiare un fenomeno che, attenzione, è uno dei fattori in campo nella turistificazione. Quando si parla di Ryanair, è stata un po' l'apertura dei viaggi a basso costo, e infatti si vede benissimo nelle città dove ci sono gli scali Ryanair come e con quale rapidità sono cambiate, insomma, dall'Italia, ma veramente a volte anche sulle sponde del Nord Africa, che sembra di essere sempre nella stessa città. Quindi Rete Set, il nodo fiorentino ha un appuntamento settimanale. Il tema è molto ampio, perché cerchiamo di avere uno sguardo non solo sul quartiere e non solo sulla città intesa come metropoli, va bene, ma bensì anche di andare oltre, perché, come accennava Sara, i fenomeni sono veramente estesi, e se sono molto ben visibili nella parte del centrissimo, del centro storico, del quadrilatero, quello fra il Duomo, Santa Maria Novella, e Piazza della Repubblica e Piazza della Signoria, si vedono anche dei grossi effetti, e si cominciano a vedere anche nelle prime periferie, che sono oramai quasi nelle braccia della turistificazione, ma anche delle seconde periferie, come accennava Rifredi. Si è visto proprio da quando è stata aperta la tranvia come le vie sono trasformate, le attività sono cambiate. Si arriva anche all'estrema periferia della città, perché le estreme periferie sono quelle colpite dalle grandi opere che sono strettamente funzionali allo sfruttamento turistico della città. Pensiamo che al giorno d'oggi a Firenze si registrano circa 18-20 milioni di pernottamenti l'anno, quindi è una cifra che esclude il turista mordi e fuggi, che arriva un giorno la mattina e va via la sera. Questo succede con l'aeroporto di riferimento, che si può dire che è quello di Pisa. Quindi noi immaginiamo, ma probabilmente è un'immaginazione veritiera, che la costruzione di un aeroporto internazionale in un'area così densamente popolata e già così aggredita da questo fenomeno possa portare a un'ulteriore accelerazione del fenomeno. Stesso discorso si può fare per l'alta velocità. Lo slogan dell'alta velocità è quello la metropolitana d'Italia, quindi è veramente chiaro l'intento. Hanno cercato, e ci sono riusciti purtroppo, di connettere le città, agendo anche sul fattore economico dei treni. Hanno alzato molto i treni regionali, li hanno livellati con quelle delle frecce, e quindi il concetto anche di mobilità all'interno dello spazio nazionale è veramente cambiato. Possiamo parlare anche all'inceneritore, un'altra delle grandi opere previste a Firenze, inceneritore che andrebbe a smaltire, tra virgolette, i rifiuti non solo dei cittadini, ma anche dei 20-30 milioni di turisti che arrivano a Firenze ogni anno. Tutto questo poi noi lo riconnettiamo con la narrazione che è tanto errata quando è Airbnb a raccontarla, quanto è errata quella dell'amministrazione, che è un'amministrazione, a nostro modo di vedere, che non solo non è capace di regolare il fenomeno, di gestire il fenomeno. Noi pensiamo che fino ad oggi addirittura l'ha sfruttato. Gli unici provvedimenti che sono stati messi in atto dall'amministrazione fiorentina e dalla regione sono l'istituzione di un registro dove poter riscrivere le locazioni turistiche, e per quanto riguarda invece il Comune di Firenze, le norme varate, una risale che è entrata in vigore il 1 gennaio del 2018 e una che entrerà in vigore adesso, il 1 gennaio 2020, non hanno fatto altro che tassare. Quindi nel 2018 hanno istituito una tassa di soggiorno anche per gli Airbnb, una tassa, diciamo, hanno regolamentato, hanno fatto sì che arrivasse a 3 euro e che finissero direttamente nelle casse comunali. A gennaio sarà aumentata, per gli Airbnb si parla di 4,50 euro. Questo naturalmente non la riteniamo una cosa negativa, se non fosse che loro dichiarano che questi soldi poi saranno utilizzati per le azioni che hanno caratterizzato Firenze negli ultimi anni, e quindi, come diceva Cosimo, una sempre maggior foodification, quindi un mangificio, ma non solo. Loro specificatamente dicono che verranno utilizzate per avere un maggior decoro in città, un maggior decoro che, a nostro modo di vedere, si trasforma in una lucidata alle piazze e a una militarizzazione dello spazio. Non sono io a dirlo, ma è l'amministrazione che si vanta di aver installato, penso, se non mi sbaglio, siamo a circa 980 telecamere, 1000 telecamere a Firenze, sono raddoppiate negli ultimi 2 anni. Ma non solo, posso citare l'ordinanza sulle zone rosse, che è entrata in vigore a aprile, se non mi sbaglio, è stata in vigore un mese solo, per fortuna, perché era uno scempio, e l'hanno detto anche i magistrati, è stata poi annullata dal TAR. Però ecco, questo un po' per specificare che la linea dell'amministrazione è quella di attrarre sempre di più queste forme di investimento, queste piattaforme, che però hanno un comportamento estremamente aggressivo. Si parla veramente di estrattivismo urbano. E questo comporta che tutti i luoghi, tutti gli spazi che attualmente non sono sfruttati vengano messi a disposizione degli investitori. Il Comune addirittura promette una sorta di paradiso fiscale per le start-up e per le piattaforme a Firenze, l'ho annunciato circa un mese fa, dicendo che sono le benvenute, anzi possiamo anche non fargli pagare le tasse alle start-up. Questo poi nella pratica fa sì che a Firenze gli stabili e gli edifici che attualmente sono vuoti, che ce ne sono ancora inutilizzati, vengano messi a disposizione del privato, quando in verità la necessità di un'edilizia popolare, pubblica, è veramente fortissima. E le risorse, quando vogliono, le trovano, quindi è veramente volontà politica. Questa volontà politica, naturalmente, visto che non ce l'hanno, va creata, e quindi sicuramente l'invito è quello all'attivarsi, chiunque in prima persona e naturalmente in modo collettivo attraverso dei ritrovi, degli appuntamenti, come può essere quello istituito dal Via del Leone qui nel quartiere Sanfrediano, come può essere quello della Rete Set, anche per fronteggiare quello che forse vi anticipo, ma ci stavate arrivando, quello che succede, che succederà a Firenze in futuro, a partire da domani, e in Italia si può dire, perché proprio domani viene lanciata questa iniziativa da Airbnb che si chiama 100 case per 100 idee, e fondamentalmente loro non fanno altro che far incontrare gli host, o almeno alcuni degli host, quindi chi affitta su Airbnb per lavoro, farli incontrare e fondamentalmente creare un movimento che sia politico, anche se poi loro non la raccontano così, che però, diciamo, riesca a acquistare un peso nelle decisioni cittadine, cosa che Airbnb ha già, intendiamoci, non è che gli manca, però se lo fa Airbnb è un conto, se lo fa fare ai cittadini ha tutto un altro valore. A tutto questo non possiamo fare altro che opporci fisicamente e attivamente, e quindi l'invito è sicuramente quello di essere presenti intanto in primis nelle piazze, negli spazi che la città mette a disposizione, negli spazi autogestiti. Crediamo fermamente che l'autogestione sia il punto di partenza per iniziare e far sviluppare un'opposizione profonda a questo tipo di fenomeni, e l'autogestione è una cosa ben diversa da quello che viene dalla narrazione che viene fatta ad esempio da Airbnb e dalle piattaforme, no? Di movimenti dal basso che partono dalla condivisione. La condivisione si fa quando ci si incontra, quando non si fa profitto e quando ci sono poi degli obiettivi comuni che arrivano da necessità comuni. Quindi ancora l'invito è sicuramente quello di essere in piazza domani alle 9:30 in Santo Spirito per far sentire la voce, per opporsi a questa politicizzazione di una multinazionale. E l'invito è ancora il pomeriggio e nella domenica per la questione dell'aeroporto, che è vitale per tutti noi e per la città. E vi saranno un appuntamento pomeridiano in Piazza Santa Trinita, se non mi sbaglio, e il giorno successivo invece ci sarà sempre un dibattito a tema grandi opere, grandi infrastrutture e turistificazione al presidio no aeroporto a Peretola. E questo direi che vi lascio e continuiamo l'approfondimento. D'accordo, grazie Silvio. No, per completare un attimo questa cosa della Rete 7, in realtà è una rete di città che siamo collegati a partire da Barcellona, Siviglia, Valencia, Palma de Mallorca, in Italia Firenze, Venezia, Napoli, Roma, forse Palermo c'è, cioè è una rete di città che si sta attivando a livello globale, a livello ovviamente degli stati del sud, quelli là più coinvolti da questo tipo di fenomeni, anche per avere uno sguardo più ampio, per affrontare con una maggiore capacità di impatto questo tipo di sfruttamento delle città e dei luoghi. Ora, gli elementi e le sollecitazioni penso siano state numerose, significative, eccetera. Ora la parola un po' a voi per capire un po' le reazioni proposte da parte degli abitanti, dei residenti della città. Quindi il microfono è aperto. Scusate, un'ultima cosa. Se fate le domande vi prego di farle nel microfono, quindi ve lo passiamo, perché stiamo registrando tutto e fra l'altro la registrazione sarà disponibile sulla piattaforma, sul blog di Radio Wombat, e stiamo anche andando in diretta, quindi sappiatelo. Sono Luca Raiteri, un attivista di Firenze e ringrazio per questo approfondimento. Io già ero stato una volta a fare una passeggiata per Firenze con voi, partendo dalla stazione, a vedere tutti i luoghi che sono stati, diciamo, luoghi pubblici, svenduti al privato o in attesa di essere svenduti, perché purtroppo un po' le politiche di certe amministrazioni sono quelle di, diciamo, volutamente o meno, mettiamolo fra virgolette, di lasciare andare in decadenza i beni pubblici e poi svenderli ai privati. E questo non è, e questo è la gentrificazione anche oltre che l'Airbnb, no? Quindi magari beni pubblici come mondeggi, come o tante anche case. C'era stato anche un tentativo 2 anni fa, no? Mi ricordo un tentativo. Avevano cambiato il regolamento comunale sulla che riguardava le case storiche, per cui si poteva, lasciando solamente diciamo, la facciata, l'ingresso inalterato, poi fare dei mini appartamenti e affittarli a turisti di alto livello. Insomma, quindi era, per fortuna Italia Nostra e altri comitati sono opposti e la cosa non è andata in porta, almeno per ora. Quindi c'è questa tendenza. E poi, tornando a Airbnb, io mi ricordo che all'inizio, anni fa, mi sembrava anche a me una cosa, cioè questa la sharing economy, no? Veniva diffusa come sharing economy, Airbnb, tutte queste piattaforme, Uber, poi abbiamo visto che ci sono quelli che portano la pizza in bicicletta e vengono sfruttati, questo aspetto di Airbnb, quindi questa sharing economy si è dimostrata una fregatura, cioè quella che doveva essere un'economia della condivisione, la cosa positiva che richiamava, insomma, mi faceva pensare, insomma, alle piattaforme condivise, in realtà non è per nulla condivisa, sono piattaforme che sfruttano le persone oppure desertificano e mandano via gli abitanti, quindi va sfatato questo mito della sharing economy, che non è una pseudo sharing economy, perché cioè Wikipedia è sharing, ma quando c'è qualcuno al vertice della piramide che comanda, è un inganno, insomma, è un inganno che si maschera sotto una veste buonista, invece c'è il lupo cattivo dietro, insomma, direi, ecco. Salve, sì, buonasera, io sono Simone Vezzani, ho ascoltato con interesse, intanto come qui residente del quartiere, perché abito in via Burchiello, quindi proprio a 2 passi. E volevo soltanto segnalare, io insegno anche all'Università di Perugia, giurisprudenza, e noi abbiamo attivato una clinica legale da vari anni, è stata ideata da Maria Rosaria Marella, che si chiama Salute, Ambiente e Territorio, ci occupiamo di varie tematiche legate ai beni comuni e proprio quest'anno siamo stati investiti di un caso che riguarda proprio quello della turistification. Per cui ecco, ve lo segnalo se sarebbe anche interessante insomma, instaurare una collaborazione se qualcuno di voi vuole portare questa esperienza anche più fiorentina, al caso credo riguardi Napoli, me lo comunicava ieri la collega. E, ecco, quindi il tema a noi ovviamente quello che interessa è proprio il problema piuttosto complesso della regolamentazione giuridica di questo fenomeno. Grazie. Grazie. Ciao, buonasera. Io volevo chiedervi un po' la vostra opinione su quello che è successo a Bologna, cioè sull'ordine del giorno che è stato recentemente votato a Bologna su questa questione, e in più volevo chiedervi anche un po' dal punto di vista ecco studentesco quello che può essere messo in atto, ad esempio come può essere implementato, quali sono i dispositivi che possono essere utilizzati per ampliare o comunque modificare l'affitto a canone concordato. Io volevo fare una domanda su una cosa che ho visto su alcune riviste, cioè che esiste un livello intermedio, mi sembra anche consistente da un punto di vista economico, fra la persona che affitta e e Airbnb. Ho letto che esiste una società in Italia che ha raccolto 8 milioni di euro di sottoscrizioni azionarie, tra l'altro sottoscritte in particolare da un fondo di Banca Intesa, uno di Invitalia, quindi in qualche modo dal settore pubblico, e che è stata designata come co-host di, non so bene cosa voglia dire, però ho letto che ha 70 dipendenti e 50 collaboratori, fra virgolette, anche questo, quindi insomma sembra una, mi sembra ci sia una filiera che è abbastanza complessa, volevo capire qualcosa di più. Sì, io volevo ricordare, puntualizzare questo aspetto, che è quello che mentre in maniera accelerata negli ultimi anni è andato avanti questo processo di gentrificazione ed espulsione in primo luogo dal centro storico, accanto a questo processo c'è stata questa mistificazione attraverso gli spot, però senza realizzare niente, questa retorica del riportare la residenza in centro, e in un contesto in cui al contrario sono andati avanti i processi di privatizzazione dei beni comuni, di quello che era la proprietà dello Stato e tutto il resto, e anche di beni comunali. Ossia, voglio ricordare il passaggio, quindi la vendita a un fondo immobiliare del Ministero, mi pare, delle case Erpe in Firenze, in particolare quelle in Via dei Pepi, quindi in una zona estremamente centrale, dove potevano essere fatte operazioni di ristrutturazione e quindi mantenere un certo tipo di residenza popolare e affitti calmierati. L'alienazione di immobili, e comunque anche il fatto che in regolamento urbanistico il comune poteva indicare quote di grossi immobili, come per esempio la caserma Cavalli qui nel Rione, per metterle a residenza, e a residenza anche affitto housing sociale, affitto calmierato, quello che si vuole, mentre invece questa operazione non è stata fatta. Ora, da anni c'è questo problema, gli unici spazi che si possono, gli unici edifici pubblici che si può pensare di utilizzare a questo scopo sono la caserma Mameli, l'ex caserma Mameli, l'ex caserma dei Marescialli in piazza Stazione e Sant'Orsola. Dico, su questo sarebbe necessario delle iniziative che spingono il Comune a fare quello che dicono, ossia a fare come il modello murate, quello che dicono senza non fare, che è il modello delle murate, ossia fare delle situazioni di questo genere. Su questo no, globalmente non siamo mai riusciti a intervenire. Ora, se c'è questa attenzione e se si lega alle cose più globali, secondo me è il momento in cui possiamo, su queste cose non è che sorgono comitati perché i residenti in quelle zone non ci sono più, ma in cui possiamo organizzare una pressione sui livelli istituzionali a questo scopo. Siamo in un contesto invece in cui altre situazioni sono andate a ramengo con gli studentati, con questo processo poi anche di espulsione delle facoltà universitarie dal centro verso altri lidi e che sono sostituite poi da scuole per stranieri e altre situazioni che portano con sé il discorso degli studentati di lusso. Insomma, è un discorso globale, non sono cose nate per caso, c'è un progetto che è stato fatto da tempo, da molti anni, e che però ultimamente su una serie di processi è andato avanti in maniera vertiginosa. A questo si lega anche gli elementi di espulsione che ha provocato l'accentramento di situazioni di quello che è il mangificio e la movida, tanto per semplificare, che hanno incentivato anche l'espulsione, l'allontanamento dal centro di chi anche aveva la possibilità di restarci. Tu hai chiesto di Bologna, vero? Sì, guarda, rispondo al volo, io poi devo scappare un secondo che ho un'intervista tra 3 minuti, però provo, a Bologna è molto interessante, in realtà hanno fatto appunto una mobilitazione molto intelligente a partire da, diciamo, dei collettivi appunto studenteschi, però unendo poi un'eterogeneità dei soggetti diversi sul tema. Per cui hanno portato avanti una battaglia molto, molto fatta molto bene con dati, insomma, e studi, quindi anche un livello di ricerca, e quindi molto serio. E poi appunto hanno fatto una raccolta di firme per aprire un'istruttoria sul diritto alla casa, insomma sulla questione abitativa, per cui, come dire, questa pressione poi, perché poi è così che poi si muovono le amministrazioni, cioè si muovono perché i cittadini fanno pressione. Poi è chiaro che adesso staremo a vedere, ma il sindaco ha dichiarato, diciamo, il blocco degli Airbnb in centro, e sarà molto interessante vedere se e come lo farà, perché appunto in realtà lui menziona il decreto UNESCO, lì c'è tutta, insomma, una questione rispetto all'apertura con scia, non scia delle attività, per cui appunto, cioè, poi sull'aspetto tecnico è tutto da vedere, non è chiaro come hanno intenzione di farlo, però sappiamo che i tecnici del comune stanno lavorando con Nomisma per appunto provare appunto a bloccare Airbnb in centro, e secondo me comunque è già un buon inizio, anche se lì credo che a Bologna poi ci sia, come dire, una mentalità che è un po' opposta, no, alla nostra, perché lì invece c'è l'intenzione di gentrificare il centro, per cui di controllarlo, però proprio perché invece diventi un appunto sito UNESCO e quindi sia tutto perfettamente sotto controllo da questo punto di vista, per cui non credo che ci sia invece un'ottica, no, di garantire l'abitare appunto per gli studenti e fasce, insomma, di popolazioni meno abbienti. Però appunto quello secondo me è un ottimo punto di partenza. Dopodiché appunto il problema di Airbnb non riguarda solo il centro, riguarda tutta la città, però insomma da qualche parte, diciamo, forse si sta iniziando a muovere qualcosa. Sì, sempre per quello che riguarda gli studenti universitari, il fenomeno degli Airbnb è andato a colpire anche le abitazioni per gli studenti universitari, perché a Firenze gli studenti universitari che prima erano diciamo così, quelli che venivano privilegiati, insomma, nella ricerca delle abitazioni da parte dei proprietari, erano visti un po' come loro negli occhi, adesso anche loro sono diventati subordinati agli affitti brevi per turisti. Quindi anche gli studenti universitari hanno iniziato ormai da l'anno scorso, si è evidenziata questa difficoltà a trovare delle abitazioni, ed è stranissimo questo, e anche loro hanno iniziato a scegliere di andare ad abitare fuori dalla città, vicino ai mezzi di trasporto, quindi lungo la linea ferroviaria, per arrivare appunto con un mezzo pubblico a Firenze, e quindi vicino all'università. È una cosa che si sta verificando non solo a Firenze. Bologna ci ha iniziato a pensare prima, giustamente, perché è un fenomeno che sta colpendo anche quella città. Tra l'altro, a Firenze abbiamo avuto una diminuzione del numero degli studenti, di iscrizioni, è un numero più basso di iscrizioni all'università. Quindi, insomma, anche questa è una conseguenza di questo fenomeno. Eventualmente riprendo il discorso che è stato sollevato sulla questione dei beni pubblici, beni demaniali. Firenze ha questa caratteristica, ha un patrimonio di immobili pubblici e di immobili del demanio, di proprietà del comune, che davvero è enorme. È chiaro che è un patrimonio che fa gola, ha fatto gola e continuerà a far gola agli speculatori di tutto il pianeta. Qui sono presenti le multinazionali, le holding più potenti che stanno operando davvero in tutto il pianeta. Sono delle potenze straordinarie, hanno una quantità di risorse finanziarie che noi non riusciamo a immaginare. Però insisto su questo, da un lato c'è questa potenza di fuoco, no? Dall'altro lato c'è una disponibilità di un patrimonio, e come nel caso delle murate credo sia l'unico esempio significativo, positivo, di recupero di un immobile pubblico nel centro storico, poi per il resto insomma, non ci sono esempi significativi. Allora, da un lato ci sono queste proprietà, queste multinazionali, dall'altro lato che attaccano quindi la città, dall'altro lato un patrimonio ingente, enorme, che può essere messo a disposizione della città, e dall'altro lato c'è, come al solito, una politica che è una cattiva politica, che non controlla le trasformazioni della città. E la che diventa regola di malgoverno, perché Firenze non ha un piano per il centro storico, è il centro storico più ambito, con delle caratteristiche uniche al mondo. Avremmo bisogno di un piano per il centro storico, cioè capire che cosa si deve fare di questo benedetto centro storico. In realtà sanno che cosa sta diventando, cioè c'è una specie di piano fantasma, di un non piano, e quindi ne vediamo le conseguenze. E quindi manca la programmazione, manca la pianificazione rispetto alle scelte. Chi determina le trasformazioni della città? Determinano gli amministratori pubblici nell'interesse generale, nell'interesse dei cittadini? Sono trasformazioni invece estremamente condizionate dalla presenza delle holding multinazionali? E i cittadini dove sono? I cittadini sono dei fantasmi in questa città, cioè la realtà è questa. Allora io penso che davvero si debba partire, cioè è una situazione di emergenza, ormai Firenze è in uno stato di emergenza, l'altra volta sembra di essere all'alluvione del 66, non c'è l'acqua, però c'è una emergenza abitativa, un'emergenza residenziale, un'emergenza di vita che è incredibile, cioè estremamente così significativa. Allora, rispetto all'emergenza, c'è un risposta dalla parte della cittadinanza, è vero. Questa risposta deve essere più organizzata, secondo me, a partire per esempio anche dalle proposte che faceva Cosimo, cioè secondo me dovrebbero essere organizzati degli osservatori di quartiere, cioè gli abitanti si dovrebbero organizzare in ciascun quartiere in un osservatorio che tiene sotto controllo le trasformazioni e che cosa accade in quel quartiere. A partire dall'osservatorio autogestito, auto-organizzato, poter poi fare il salto successivo, cioè cercare di capire quali sono le proposte, farle emergere e cercarle di negoziarle, ma di negoziarle da un punto di forza, non perché si scrive e si manda all'amministrazione comunale la solita lettera, la solita petizione, perché non se ne fanno proprio niente. Questo è bene saperlo. Quindi l'interlocuzione deve avvenire utilizzando un rapporto di forza che va costruito. E qui si chiama un pochettino tutti quanti alla partecipazione, perché ne va della nostra vita, ne va della nostra qualità della nostra vita, perché insomma non vorremmo scappare da Firenze, non vorremmo andare via. Cioè, nell'area UNESCO sapete quanti abitanti sono rimasti? Sono rimasti 19.000 abitanti, cioè sono fantasmi. Ma sul serio, cioè sono processi di una violenza inaudita, cioè viene qualcuno, c'è già, come si può dire, ci sono apparati che dall'esterno buttano via le persone, rendono loro la vita più difficile. Ecco, noi non possiamo arrenderci di fronte a questo fatto. Quindi io penso che questa sia una delle serate che ci siamo visti già un paio di settimane fa, e già Silvio annunciava domattina c'è un incontro in Piazza Santo Spirito, vero? Perché Airbnb ora si sta trasformando, sta subendo una trasformazione complessiva. Non è più quella società di intermediazione, non è più quel potente operatore immobiliare, ora diventa soggetto, come posso dire, soggetto politico di trasformazione della città. Cioè, questo non è possibile. Cioè, il soggetto politico che ha alla base la mercificazione della città, uno scambio di denaro, uno scambio di merci. La politica invece è fatta sulla base della condivisione, della gratuità, non dell'interesse privato. Interesse privato poi che arricchisce i soliti pochi. Quindi vedete come cerca di inserirsi nella gestione della città, diventa un agente politico. Allora hanno lanciato questa idea 100 case per 100 idee, se non sbaglio, vero? Dice: noi dobbiamo affermare il diritto all'ospitalità. Ma voi siete matti? Noi dobbiamo affermare il diritto all'abitare, noi dobbiamo affermare il diritto all'esistenza in questa città. Questo dobbiamo affermare, non il diritto all'ospitalità di che? Ospitalità basata su uno scambio mercantile. Quindi non c'è alcun tipo di rapporto positivo in questi termini. Domattina quindi cercano di stanno mobilitando gli host in maniera tale da creare, le chiamano delle comunità, io non lo so se si possono chiamare comunità, ecco, per presentarsi per un turismo responsabile, per un turismo sopportabile. Per noi è insopportabile, non c'è verso. Diventano quindi soggetti, cercano di diventare dei soggetti politici. Domattina in varie città d'Italia c'è questo incontro, 100 case per 100 idee. Noi le nostre idee ce le abbiamo ben chiare, e domattina ne andremo a parlare in Piazza Santo Spirito per cercare di contrastare e denunciare questo progetto. Domani pomeriggio siamo in Piazza Santa Trinita, anche lì per avere un livello di conoscenza della situazione di Firenze ancora più approfondito, per avere ancora più elementi di conoscenza e per poterci mobilitare, perché dobbiamo cambiare questa situazione. Tu volevi dire qualcosa ancora, Sara? Comunque 100 case per 100 idee, noi siamo di Firenze, non so se vi ricorda qualcosa, 100 luoghi, 100 punti. Non vorrei che ci fosse un suggeritore occulto, no scherzo ovviamente, però insomma. Il libro di Sara è molto bello e si legge molto bene. Però c'è un altro libro che è uscito, diciamo, quasi in contemporanea, a settembre è uscito, se non mi sbaglio, di Grazia Galli e Massimo Lenzi, che sono qui presenti, che si intitola La filosofia del trolley, indagine sull'overtourism a Firenze. Ed è anche questo un libro interessante, diviso in due parti, una alla storia un po' romanzata di un fiorentino che gira nella sua città e non la riconosce, insomma, e vede questa trasformazione, l'altra invece sono i dati efficaci e puntuali che ci dicono invece come effettivamente la realtà, come la città sta cambiando. Quindi, insomma, sono contenta che in questa nostra, nella nostra città ci siano anche dal punto di vista della scrittura, insomma, incominciano ad arrivare testimonianze di un fenomeno che è presente e che purtroppo, insomma, dà queste conseguenze negative. Non sono d'accordo con te su quello che dicevi del fenomeno degli Airbnb, perché quello è, secondo me, è il tramite. Dietro quello che si muove c'è qualcosa che, soprattutto in una piccola città come Firenze, forse lo vedi subito e da prima. Quello che sta succedendo è che gli acquisti degli alloggi, delle abitazioni, vengono sempre più fatte da grandi proprietà, da fondi immobiliari, che poi casomai veicolano tramite Airbnb le proprie abitazioni. Ma questo, secondo me, è, diciamo così, un impegno da andare veramente a capire chi è che si sta impossessando delle nostre case per metterle a profitto tramite il turismo. Quindi a te i saluti. Io. Sì, sì, no, e c'era Roberto che voleva intervenire, forse qualcun altro ancora. Vorrei tornare al libro. Si è parlato della premessa, contiene tanti spunti interessanti. E ne ho segnati due, perché spunti di carattere generale. Uno è l'impoverimento della società in generale. Per esempio, gli Stati Uniti, chissà se lo ritrovo, dal 1973 a oggi, il numero di poveri negli Stati Uniti è raddoppiato, nonostante nello stesso periodo la ricchezza nazionale sia più che triplicata. Sono riflessioni di carattere generale, molto importanti per capire dove siamo. Quando si parla della città consegnata al capitale speculativo internazionale, alle grandi holding di investimento, e ci dobbiamo fare un quadro chiaro, insomma, gli amministratori nostri sono gli agenti, i facilitatori di questo meccanismo. E se noi oggi parliamo di un particolare che è quello di Airbnb, noi abbiamo in gioco tutto il territorio della città. Si vede proprio in questi giorni, siamo assediati, l'ultimo brandello del piano di Ripoli consegnato alla società fiorentina per fare il più grande, il più lucente centro di addestramento. Dalla parte opposta c'è l'aeroporto, l'inceneritore e il nuovo stadio. Insomma, dico, è distrutta questa città. Vogliamo capire che nel giro di 10 anni non esiste più, il centro storico non esiste più per tutti i motivi che sono stati detti stasera. Allora, la ribellione deve essere veramente totale, bisogna capire qual è il nemico. E qui c'è scritto una cosa interessante, un'altra delle cose interessanti veramente, che è una cosa che non sapevo, non avevo idea. Ho sempre, da qualche anno, dico che bisogna rendere pubbliche le piattaforme. Non si capisce perché la radio, la televisione sono, insomma, l'etere è pubblico, si danno delle concessioni, mentre le piattaforme viaggiano in eterno in maniera privata. Ecco, nel libro si dice che nel 1995, nel silenzio generale, il web è stato privatizzato. La Telecommunication Act del 1996 apriva al cyberspazio e via. Secondo me questo è fondamentale, perché dico, si parla della povertà del settore pubblico. Non è vero. I soldi potenzialmente, il pubblico, la sfera pubblica, gli stati che applicassero, insomma, che non rinunciassero a questa grande ricchezza, ci sarebbero, sono soldi di tutti questi che vanno alle piattaforme. E questo meccanismo delle piattaforme, dico, produce delle ricchezze concentrate. Oggi si parla di un numero, insomma, che sta nelle dita della mano, di grandi ricchi che hanno dei bilanci come stati. Bill Gates ha detto che lui paga soltanto 12 miliardi di tasse, dovrebbe pagarne molti di più, l'ha detto lui stesso. Allora, penso che, insomma, dobbiamo renderci conto, insomma, che non si può andare avanti in questo modo. Dobbiamo lottare per mettere fuori anche questa gente dalla città. Servono tante iniziative locali, ma anche nei piccoli comuni, a Bagnaripoli, a Sesto, il circondario, vengono sconvolti da questa, non so, massacro, direi, più che altri termini. Grazie. Noi come occupazione di Via del Leone volevamo fare un ultimo intervento prima anche di salutarci, in particolare su uno strumento che noi stiamo utilizzando per comprendere e capire come lottare contro questo fenomeno di Airbnb. Esiste un sito che si chiama Inside Airbnb, dove sono state mappate diverse città, non solo italiane ma anche europee, extraeuropee, tra cui c'è Firenze. E Firenze è divisa, appunto, anche lì in mappature di quartiere, per cui c'è l'Isolotto, c'è Scandicci, c'è Novoli e c'è il centro storico e Firenze Sud. La cosa che ci ha più impressionato e che chiaramente è il fulcro anche di quello che porteremo in piazza domani e nelle prossime uscite che faremo con questa campagna Boycott Airbnb, è che tramite questo sito, appunto, una delle funzionalità che puoi utilizzare è vedere quanti host, quindi quante persone che mettono le loro case a disposizione, hanno più di un annuncio, per cui più di un immobile da poter affittare. Tramite questa funzione si scopre che esistono una lista di top host che va dai 168 appartamenti per il primo host ai 20-25 dell'ultimo, che sono tipo 20 nomi. E la maggior parte di questi nomi presenti nella lista sono prestanome, in realtà sono lavoratori che fanno parte delle aziende e, appunto, degli edilizia immobiliare, delle aziende tipo Florence Apartment, per esempio, che gestisce il primo prestanome, che si chiama Lorenzo sul sito, che è un lavoratore, appunto, di questo Florence Apartment, che possiede 168 che ha pubblicato, anzi, 168 annunci di hosting. Per cui si vede palesato il problema. Airbnb non è più, o forse non è mai stato, la rete che voleva essere, per cui la famiglia della città mette a disposizione la sua casa e la sua stanza per un turismo meno costoso, più facile, più smart, eccetera, eccetera. Ma in realtà si vede come il capitale e le aziende di questo tipo si siano infiltrate senza nessunissimo tipo di problema, perché c'è, per esempio, per avere un profilo host devi avere una carta d'identità, un nome, una casa, per cui i lavoratori fanno, appunto, da prestanome per queste aziende. Per cui per noi, appunto, è fondamentale, di fondamentale importanza, lottare contro questo tipo di dinamiche, perché è chiaro che non è la famiglia fiorentina che mette un annuncio su Airbnb il problema della turistificazione massiva di questa città, di questo quartiere, ma sono anche maggiormente questo tipo di aziende, questo tipo di dinamiche. Per cui ancora una volta volevamo ringraziare tutte e tutti per essere stati qua e invitarvi domani mattina alle 9:30 in Piazza Santo Spirito per la prima uscita di questa campagna. E niente, questo. Grazie mille per l'attenzione. Sì, Ringraziamo quindi Sara per essere stata qui a Firenze e per aver scritto questo bel libro, davvero ci ha aperto gli occhi, questo lo possiamo dire. E Laura per il continuo lavoro, impegno che svolge in questa nostra città così faticosa e problematica, possiamo dire anche questo. Rete Set, Silvio e l'occupazione di Via del Leone, che rappresentano due realtà vive, due soggettività estremamente vive, reattive e anche molto propositive. E cosa dire? Ringraziamo tutti voi e non perdiamoci di vista, almeno questo è il minimo che possiamo fare.